1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, le 7:18 minuti, cari ascoltatori. La lettura dei giornali è pronta. Lì dietro l'angolo, amici debosciati! È da un po' che non ve lo dicevo, eh? Debosciati miei, che state facendo? Siete già pronti nelle vostre giornate? Allora, oggi parleremo di abusivismo edilizio. Ripartiremo da quello che De Luca, il governatore della Campania, ci ha detto qualche giorno fa ai nostri microfoni, quando ha detto che si penserà anche a una sanatoria per alcune delle 80.000 case abusive in Campania. Siamo sempre lì. Parliamo di questo, parleremo anche di immigrati, racconteremo la storia di un insegnante di storia e filosofia, il classico di Treviso, nel Veneto, dove ci sono tante polemiche, che ha aperto la propria casa a 6 immigrati. E ci racconterà tutto, questa alle 8:40. Intanto andiamo a leggere i giornali, eh? È giovedì 11 giugno, i titoli: c'è chi sceglie la visita di Putin e soprattutto le relazioni commerciali con la Russia. Il Sole 24 Ore apre su questo: sanzioni mini rublo costano 3 miliardi alle imprese italiane. I conti della crisi settore per settore nel giorno del vertice Italia-Russia. Poi c'è la vicenda con la richiesta d'arresto per un senatore del nuovo centrodestra di Alfano, il senatore Azzollini. Inchieste, tensione nel governo, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, arrestate senatore NCD. E il PD dice: diremo sì. Il Messaggero: il caso arresti agita il governo. Per il Giornale: mafia capitale, io chiamo Angelino, così intercettato dai ROS. Odeven rivela che la Coop di Mineo, del comune di Mineo, si sentiva protetta da Alfano. Alfano viene anche messo in prima pagina del Manifesto. L'inchiesta che ha portato alla richiesta d'arresto per il senatore Azzollini si chiama Oro Pro Nobis, e il Manifesto gioca su questo con la foto di Alfano e il titolo Ora Pro Nobis. Il Fatto Quotidiano invece: così Buzzi ha finanziato la Leopolda e il PD di Renzi. È anche il titolo dell'apertura di Libero: Coop pagava la cena a Renzi e subito si becca l'appalto, le sorprese di Mafia Capitale. Per La Stampa invece c'è una notizia in prima pagina sulla scuola: la riforma potrebbe slittare di un anno. Questa è l'apertura. Questa è l'apertura della Stampa. Partiamo però da che cosa? Beh, abbiamo sentito anche nel giornale radio, c'è stato un passo avanti per quel che riguarda l'approvazione dell'omicidio stradale. In Senato c'è stata l'approvazione, ora passa alla Camera. Il governo è stato peraltro battuto su 2 emendamenti. Il Corriere della Sera dedica una pagina a questo omicidio stradale: fino a 27 anni per i pirati. Giovanna Cavalli ne scrive a pagina 20: mai più impuniti, con 163 sì, 65 astenuti, 2 voti contrari, il Senato ha approvato il disegno di legge sull'omicidio stradale. Nel provvedimento che ora passa alla Camera si modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale e il codice della strada. Le nuove norme inaspriscono le sanzioni per i pirati della strada, che rischiano fino a un massimo di 27 anni di carcere. Questa è la pena massima prevista per chi, guidando in stato di ebbrezza particolarmente pesante o sotto l'effetto di droghe, uccida più di una persona e poi si dia alla fuga. Qualora invece l'investitore si fermi, gli anni scendono a 18. Se la vittima invece è una, il colpevole rischia fino a 12 anni di carcere, che salgono a 18 in caso decida di scappare dal luogo del delitto. Il disegno di legge introduce anche il reato di lesioni personali stradali, che verrà punito col carcere da 2 a 4 anni, e verrà introdotto inoltre l'arresto obbligatorio in flagranza in caso di morte della vittima. Insomma, queste sono alcune delle novità. Ora c'è il passaggio alla Camera, un cammino che per la verità anche al Senato è stato accidentato, racconta il Corriere della Sera. Il governo, che aveva dato parere contrario su 3 emendamenti, è stato battuto, visto che l'Aula li ha approvati. Comunque non è ancora previsto questo reato, c'è ora l'iter alla Camera. Voglio invece raccontare di un'intervista che Repubblica fa per tutte le persone che fumano o che fumano le sigarette elettroniche. Beh, ma parla per la prima volta a Repubblica il signor di Hong Kong, On Lik. E voi direte, chi diavolo è questo qui? È colui che ha inventato la sigaretta elettronica. Il segreto di Mr. Lik: così ho inventato il fumo elettronico. L'ha creato nel 2002. Intanto fa una premessa in questa intervista di Enrico Franceschini su Repubblica, che trovate a pagina 25. Mio padre è morto di cancro ai polmoni, io ho fumato fino a 3 pacchetti di sigarette al giorno per 30 anni. Ora spero che la mia invenzione salvi la vita a tutti i fumatori incalliti come me. Come ho ideato la sigaretta elettronica? Ero nella vasca da bagno, attaccandomi al corpo uno di quegli speciali cerotti per smettere di fumare. Le avevo provate tutte. Ho pensato che non mi dava minimamente la stessa sensazione di fumare quel cerotto. Mancava qualcosa, il fumo, innanzitutto. Così ho pensato a una sigaretta che funziona alimentando vapore con la corrente elettrica. Volevo, insomma, creare la sensazione del fumo. Avevo bisogno di una fonte di energia che alimentasse il vapore, e l'elettricità sembrava quella giusta. Il difficile è far stare tutto dentro un minuscolo cilindro, dentro una sigaretta. Poi dice questo signore: sono arrivato qui dopo una vita passata a studiare la medicina tradizionale cinese, ma sono stato anche un fumatore, fino a 3 pacchetti al giorno. Ora spero di salvare molte vite. Al che Repubblica dice: scusi, lavorare per l'Imperial Tobacco, per uno che vuol salvare l'umanità dal cancro ai polmoni, non è un po' come se la Croce Rossa fosse di proprietà di una fabbrica di armi? Capisco le critiche e i dubbi, anzi sono benvenuti quando ci si trova davanti a un nuovo prodotto. Il mio è non solo nuovo, ma rivoluzionario. L'importante però è informare correttamente i consumatori. I dati si possono riassumere così: 600 è il rischio malattie per chi fuma sigarette tradizionali, 5 è il rischio per chi fuma sigarette elettroniche. Così parla Mr. Lik, il fondatore, l'ideatore, il creatore della sigaretta elettronica. Oh amici, se siete su Twitter, Facebook, uno dei tanti social network, ne ho citati due, i più quelli che mi sono venuti in mente prima di tutto, sappiate che Umberto Eco, dall'alto dei suoi 85 anni, ha tuonato, anzi 84 anni, e peraltro non ha tutti i torti, eh? Io sottoscrivo parola per parola quello che ha detto Umberto Eco, che si guadagna una pagina sulla Stampa oggi a pagina 11. Ieri, ritirando la laurea honoris causa, non so a che numero sia arrivato, Umberto Eco in comunicazione media ha detto: dei social network sono uno sfogo per una legione di imbecilli, anzi per legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino e di solito venivano messi a tacere. Ora invece chi scrive sui social ha lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. Ma è normale, capita in tutte le comunità numerose. Nei gruppi con più di 50 persone, quelli che si espongono di più sono sempre gli imbecilli. Questo Umberto Eco. Così ha parlato anche di internet, una cucina dove si confezionano bufale, è il luogo in cui nascono le teorie più assurde, complottiste, dalle accuse sui gesuiti sospettati di aver affondato il Titanic e ucciso Kennedy, la costruzione di coincidenze numeriche sull'attentato delle Torri Gemelle. Insomma, Umberto Eco ce l'ha con internet e i social network, soprattutto i social network dove legioni di imbecilli che prima avevano titolo di parlare solo al bar e dopo aver bevuto, ora invece si possono sfogare. Sottoscrivo in pieno, totalmente. Io che uso i social network, magari sono uno degli imbecilli, eh? Mica mi sottraggo da questo giudizio del noto semiologo Umberto Eco. Va bene, ma siamo al momento dell'articolo Mani sul volante. L'articolo che ci fa più incazzare della giornata, e questo veramente è tosto, eh? Questo veramente è tosto, e quindi appoggiate tutti gli oggetti contundenti, soprattutto se state spalmando fette biscottate con la marmellata. Per il coltello lo dico, eh. Un pedofilo ha abusato di mia figlia, non farà mai un giorno di carcere. La denuncia disperata di una madre sul Giorno. Laura De Benedetti racconta questa storia a pagina 19, questa denuncia shock di una madre: quell'uomo ci ha rovinato una vita, un 75enne che ha abusato ripetutamente una bambina di 6 anni, è stato condannato in primo grado, ma c'è l'appello. L'appello tarda. Nonostante i solleciti del nostro avvocato, non è stata ancora fissata la data e a dicembre scatterà la prescrizione. Comunque vada a finire il processo. Disperata una mamma lodigiana che da tempo si batte a fianco della figlia che oggi ha 21 anni, è stata abusata quando ne aveva 6. 6. Quindi sono passati 15 anni e c'è stato solo il primo grado e neanche l'appello. E che bisogna dire? Che bisogna aggiungere? Il titolo dice tutto. Un pedofilo abusato di mia figlia, ma non farà mai un giorno di carcere. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il ministro Boschi dell'informazione. Dai, dacci dentro, dai! Vabbè, 7:33 minuti, cari ascoltatori. Allora, la politica ieri ha vissuto un'altra giornata concitata. C'è una richiesta di arresto per un senatore del nuovo centrodestra, il partito di Angelino Alfano. È il senatore Antonio Azzollini ed è il presidente della commissione bilancio. È accusato di bancarotta. È chiaramente un caso per il governo, dopo che c'è stata anche un'inchiesta, un'indagine nei confronti del sottosegretario Castiglione, sempre del nuovo centrodestra, per un'altra vicenda. Allora, pagina 6 del Corriere, Fiorenza Sarzanini, l'accusa nei confronti di Azzollini aver preso illecitamente il potere della congregazione Ancelle della Divina Provvidenza e avere poi abusato del suo ruolo di presidente della commissione bilancio di Palazzo Madama per far varare norme che agevolassero l'ente ecclesiastico. L'accusa, insomma, di aver messo piedi un carrozzone asservito ai suoi interessi personali, facendo assumere persone nelle cliniche private, dirottando i fondi su conti aperti presso lo IOR, con la complicità di funzionari e di due suore che ora sono state arrestate. Contestazioni ovviamente gravissime che costano al senatore del NCD Antonio Azzollini una richiesta di cattura del giudice di Trani per una bancarotta da 500 milioni di euro. E ovviamente su questo si dovrà esprimere il Senato, essendo un senatore, sulla richiesta d'arresto. Questo vedremo. Prima però le carte. C'è anche un'accusa durissima nei confronti, molto volgare nei confronti di Azzollini. C'è un testimone di questa inchiesta, tale signor Antonio Logatto, che riferisce ai magistrati di avere sentito il senatore Azzollini minacciare le suore così: qui da oggi comando io oppure vi piscio in bocca. Ora, voi potete immaginare, insomma, la scena. Tra l'altro, Ilario Lombardo del secolo XIX chiama Antonio Azzollini, uno che dice non commenta, ovviamente, in genere non commento, però alla quinta telefonata esce questa intercettazione, questa testimonianza di una persona che riferisce la frase che vi ho detto, al che richiamiamo, scrive Ilario Lombardo sul secolo a pagina 4, richiamiamo Azzollini, che inizia così: mi sembra che io mi esprima in italiano, ho detto che non commento. Sì, ma neanche una frase di questo tipo, forse lei ne sa più di me, io a questa frase non sono ancora arrivato, mi hanno dato le carte stamattina, sono 600 pagine. Dopodiché, mezz'ora dopo, racconta Ilario Lombardo, è lo stesso Azzollini che chiama il giornalista e dice: guardi, prima nella concitazione del momento non avevo capito la gravità della frase. Ma io non ho mai osato pronunciare quelle parole, le smentisco nel modo più categorico, mi ripugna solo il pensiero dal punto di vista umano, religioso, ma nemmeno per scherzo, verso una suora parole così, verso una donna. Prenda le carte, le prenda, dice Azzollini, e il giornalista mi dica, non volevo commentare nulla, ma vada a pagina 307 delle carte. Questo è troppo, questa frase è una vergogna, neanche nel mio animo più recondito. A una suora, poi, io avrei detto una frase del genere. Chi mi accusa è Attilio Logatto, ecco, si chiama Attilio Logatto. Racconta che era nella stanza del padre, attaccata a quella del direttore generale della Divina Provvidenza, dove io avrei pronunciato quella frase. E il PM gli chiede, ma quando ha detto questa frase Azzollini? E lui, ma era il 2006, il 2007, il 2008, una stagione intermedia, non faceva né caldo né freddo. Cioè, capisce? Uno così, che attribuisce a me queste parole, sono cose da pazzi. E vabbè, e questa è la difesa di Azzollini. Se pensate però ad avere toccato tutto di questa inchiesta sul Fatto Quotidiano, si scoprono dei particolari davvero ancora più... Ma come definirli? Niente, ve li leggo, ecco, poi definiteli voi come volete. Pagina 2 del Fatto Quotidiano. Vabbè, c'è questa frase, le suore vi comando io, vi piscio in bocca, però smentita da Ostezza Azzollini, ma nella inchiesta si legge che una persona, non Azzollini, ma un'altra persona, è accusata per aver agito in danno dell'ente anche allo scopo abietto di ottenere prestazioni sessuali anche sodomitiche. E al che si parla della vicenda del direttore amministrativo della sede foggiana della Casa della Divina Provvidenza, scrive Antonio Massari del Fatto Quotidiano, che avrebbe avuto una relazione con una donna, che era la sua amante. E poi però, quando questa donna nel 2009 teme un pregiudizio e al fine di non pregiudicare la sua posizione lavorativa, sarebbe stata ricattata dal direttore amministrativo, che a quel punto gli dice: dimmi quale deve essere la mia pena nei confronti di quest'uomo. E quest'uomo gli dice: beh, avevo pensato al tuo sedere per 3 mesi. E la donna, umiliata, dice: accetto questa pena, accetto tutto, ma chiede solo l'utilizzo di un lubrificante. Cioè, ma voi vi rendete conto? E il PM aggiunge nell'aggravante la sodomia. Noi uomini poi sempre lì cadiamo. Cadiamo in queste cose sempre per un unico motivo. Va bene, allora, questa è la vicenda Azzollini. Al di là dell'inchiesta, ovviamente la questione politica è: che succede ora alla maggioranza? La reazione, secondo Marco Galluzzo del Corriere della Sera, di Renzi è: il premier è garantista, ma il timore è che ci sia qualcosa di questo, unita alla vicenda di Roma, mafia capitale, dove stanno uscendo di tutti i colori. Ecco che c'è il timore di un accerchiamento. Anche Francesco Verderami, sempre in prima pagina del Corriere, poi pagina 9, continua l'articolo, dice che il caso Azzollini potrebbe produrre una crepa nel cristallo e provocarne la rottura dopo la vicenda Castiglione, sottosegretario NCD, anche lui indagato per un'altra vicenda. Qui c'è una richiesta d'arresto, bisognerà capire anche come voteranno il Partito Democratico quando arriverà la richiesta d'arresto al Senato per Azzollini. Poi c'è la vicenda di Mafia Capitale, ogni giorno ne spunta una. Oggi la novità più importante raccontata dalla prima pagina del Fatto di Libero è che la cooperativa di Salvatore Buzzi ha finanziato con 10.000 euro circa la cena famosa di Renzi. Renzi a Roma ha incontrato imprenditori. Hanno partecipato anche coloro che facevano parte della cooperativa 29 giugno. Salvatore Buzzi, il vice Guarani e Giovanni Fisconi, il direttore generale dell'AMA. La Coop finanzia Renzi e subito ottiene l'appalto. Questa è l'accusa di Libero a pagina 6. A novembre Buzzi versa 15.000 euro per una cena col premier, 5.000 euro invece alla Leopolda, la manifestazione sempre di Matteo Renzi. E può festeggiare la vittoria di una gara che sembrava persa. C'è anche questa intercettazione che viene associata a questi finanziamenti da Libero. L'intercettazione di Buzzi: abbiamo il gatto nel sacco. Anche per il Fatto, da Buzzi 5.000 euro alla Fondazione Renzi e 15.000 ai Democrat, al PD. In tutto questo però Ignazio Marino tiene duro. Ignazio Marino non si smuove di mezzo centimetro. L'articolo migliore oggi è di Francesco Merlo, che segue per un giorno per Repubblica il sindaco di Roma. Ignazio Marino, la resistenza di Marino, i miei nemici sono nel partito. Questo è il titolo di pagina 9 di Repubblica, una pagina che vi consiglio. Proprio segue giorno, tutta una giornata, Ignazio Marino. Passo la mia giornata con lui. E lui dice: io passo la giornata dentro il PD di Roma a controllare. Questa è la frase di Orfini, l'ispettore del PD. E Merlo, Francesco Merlo, dice: io invece passo tutta la giornata col sindaco, alla fine mi convinco che Marino è il colpevole al quale non si può rimproverare nulla, o forse è l'innocente al quale si può rimproverare tutto. Guardi, mi dice Marino, che Buzzi, come dannato redento, era piaciuto perfino al presidente Scalfaro, che andò all'inaugurazione della sua cooperativa. Perché pensa che il mio vice sindaco Luigi Nieri potesse smascherare il diavolo che era riuscito a truffare perfino Scalfaro? Questo chiede Marino. E poi ancora, È una balla assoluta che io volessi promuovere l'ex assessore Ozimo. Una sola volta Ozimo mi condizionò, quando mi convinse a non cacciare il direttore generale dell'AMA, Giovanni Fiscon. Oggi sono entrambi arrestati. E poi dice Marino altre cose che sembrano veramente da marziano, come lo accusano di essere. Mi vanto di conoscere meglio di tutti alcune cose di Roma. E lei non sa quanta solidarietà io riceva dall'Australia, dagli Stati Uniti. All'estero mi applaudono tantissimo, mentre a Roma certo fatico. Ma invece di chiudere Roma per mafia, noi stiamo chiudendo Roma alla mafia. E poi penso al semaforo. Il semaforo. Sì, il semaforo. Nel mio ospedale tenevo un semaforo che cambiava colore quando qualcuno alzava la voce. Ecco, lo metterei a volte nella sala del consiglio comunale. E insomma, Marino va avanti così. Io mollo. Al contrario, mi sento solo all'inizio. Mai come adesso sono deciso a restare, sicuro di farcela. Perfino mia figlia, categoricamente contraria alla mia candidatura, ora è orgogliosa di suo padre sindaco. E di fronte alla spazzatura, ai sanpietrini che saltano, le buche, insomma, Marino dice: rilancerò Roma, faremo la rivoluzione della manutenzione e già l'8 dicembre, all'apertura del giubileo, Roma sarà stravolta, completamente diversa. Ecco, conclude Francesco Merlo, il paradosso è che il marziano Marino crede davvero che l'8 dicembre Roma sarà come Pittsburgh o Filadelfia. Aria, luce, pulizia, gerani sui balconi. E annuncia ci sarà perfino il Collegio Nazionale dei Bimbi Danzatori, un convitto per portare all'Opera di Roma tutti i futuri Roberto Bolle d'Italia. Insomma, marziano o che, non lo so. Lo chiedo a Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno. Vedo che miglioriamo. Ieri eravamo proprio su degli arrestati, mi pare. Sì. Oggi li ho letti prima. Oggi sì, hai messo questa intercapedine, per dire così. Vabbè, insomma, lo apprezzo. Vedremo se il mio avvocato sarà dello stesso parere. Mi farò consigliare. Caro Alessandro, qui non è da marziani, la giornata è importante oggi. È una giornatina di tutto rilievo. Perché? Perché in serata c'è il Consiglio dei Ministri e tu sai che spunta la clausola di salvaguardia. Paghiamo? Tu già hai capito cos'è la clausola di salvaguardia. Allora, c'era una volta il reverse charge, poi la UE ha detto e non va bene, e quindi noi abbiamo bisogno di 700 e passa milioni, credo 728, ma trovi tutto sul Sole 24 Ore di oggi. Chiediamoli al popolo, che problema c'è? No, abbiamo detto, li prendiamo dalla voluntary disclosure, che lo dico anche per Angelino, però non si sa se questi arrivano. Allora, se per caso non arrivano, c'è la clausola di salvaguardia, ecco. Cioè paghi tu. Comincia pure tu a pagare. Ma ti spiega tutto Marco Mobile, poi lo scopriremo naturalmente oggi nel corso del Consiglio dei Ministri. Importante, perché si parlerà, e lo apprendi leggendo le pagine di Finanza del Sole 24 Ore, anche di crediti deteriorati. Sarebbero, hai presente quei caffè che non mi offri mai? Sì. Che dici sempre che mi offri il caffè e poi mai me lo paghi? Ecco, è una sorta di credito che oramai è deteriorato. Questo è abbastanza vero, voi dovete sapere che io e Elisabetta Fusconi facciamo la posta al bar a Mauro Meazza appena lo vediamo dalla redazione a vetri. Andiamo giù, così ci facciamo offrire il caffè da Mauro Meazza. Adesso è queste storie di vita vissuta per spiegare che cosa sono le vicende dei crediti deteriorati, che invece spieghiamo molto più nel dettaglio naturalmente sulle pagine di Finanza di oggi. E poi ti voglio dire che oggi invece in Norme e Tributi trovi pagine due di risposte su IMU e TASI. Sai che l'IMU e TASI ti aspettano. Il 16, martedì 16, sei preparato? Sei pronto? Sì. Oh, ho molto messo bene. La barda, le aspetto anch'io. Mi fa piacere. Sappi tra l'altro che, come ti avevo annunciato qualche giorno fa, c'è stato invece il famoso secondo tentativo per l'invio del 730. Se per caso l'hai già mandato il 730 partendo dal precompilato, ti sei accorto che ti sei scordato qualcosa, hai sbagliato, ebbene puoi reinviarlo. Ti spieghiamo tutto, indovina su quali pagine. Sempre Norme e Tributi. Esattamente, sulle pagine Norme e Tributi. E poi ti parliamo anche dello sconto del 50% per i climatizzatori. Uno sconto che però non trovi questa volta sulle pagine Norme e Tributi, ma invece nelle pagine di Casa 24, come ogni giovedì. E tutto ciò premesso, e ti aspetto al bar e vediamo come va a finire questo credito, Tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, il master chef dell'informazione mattutina, taglia, trita, affetta, mescola, sminuzza, impasta, ed ora tenetevi forte sul volante. Alessandro Milan, canta! No, no, non canto. Quelli di Libero non mettono più le canzoni e quindi non canto più. Che devo fare? Vabbè. Sulla questione di Mafia Capitale ci sono tantissimi articoli. Ogni giorno ci si perde un po' nei rivoli di questa inchiesta che è sempre più gigantesca. E l'ultimo sviluppo però è anche questo. Valeria Pacelli lo racconta sul Fatto Quotidiano. Secondo una testimonianza sarebbero state assegnate senza requisiti 4 case comunali su 10. Questa è una cosa che, se vera, fa imbestialire tutti coloro che sono in lista, magari attendono una casa comunale e un alloggio perché legittimamente ne hanno diritto. Un impiegato del Campidoglio che collabora coi PM dice: troppi beneficiari superano i 18.000 euro di reddito, ma i nostri controlli sono stati inutili. Il verbale di Aldo Barletta, dirigente del Dipartimento Politiche Abitative del Comune di Roma, che in pratica avrebbe fatto capire che il 40% di chi abita in quelle case comunali non ne avrebbe diritto. E come al solito, se non ne ha diritto, toglie un diritto a uno che ne avrebbe diritto. Ma così va l'Italia. Così va l'Italia. Abbandoniamola, o meglio no, rimaniamo comunque in Italia, perché il vertice italo-russo è stato in Italia ieri all'Expo, e anche a Roma si è presentato Vladimir Putin. Ha fatto attendere il Papa 70 minuti, si è presentato in Vaticano con un corteo di 14 macchine. Comunque il Sole 24 Ore analizza molto bene ciò che è il danno per le imprese, perché Putin a un certo punto all'Expo, gelando un po' tutti, ha fatto capire che se non si tolgono le sanzioni alla Russia per via della crisi ucraina, gli accordi già stipulati la Russia se li andrà a cercare con altri partner e firmeremo con loro i contratti che ci servono. Sembra abbastanza anche ovvia come reazione. Dice: se voi tenete le sanzioni, noi abbiamo bisogno di qualcosa e le forniture delle imprese ce le andiamo a prendere da qualche altro tipo di qualche altra impresa o da qualche altro stato. Ecco, il dato che il Sole 24 Ore sbatte in prima pagina è questo: il danno alle imprese italiane 3 miliardi di euro, pagina 2 e 3, il conto da 3 miliardi di euro l'anno per la mancanza dell'export in Russia, in 4 mesi già persi 1 miliardo di euro. E sia sulle calzature, sia sul tessile e la moda, sul legno arredo, sull'alimentare, tutti i settori analizzati settore per settore, ecco quanto perde l'Italia con le sanzioni alla Russia. Noi parleremo anche di immigrati, questo dalle 8:40. C'è spazio però solo per raccontare che cosa? Beh, che in Vaticano c'è una novità stabilita dal Papa, e cioè nasce una nuova sezione giudiziaria per far fronte alla pedofilia e soprattutto per far fronte e processare chi a livello di vescovi copre gli abusi sui minori. Avvenire dedica l'apertura di prima pagina e una pagina, pagina 15, a questo. Pedofilia, nasce la nuova sezione giudiziaria, racconta Stefania Falasca. Papa Francesco ha stabilito il reato canonico di abuso d'ufficio episcopale per i pastori che non danno seguito ai casi di denuncia di violenze sui minori e anche sugli adulti vulnerabili da parte del clero. Ha istituito per questo un'apposita sezione giudiziaria in seno alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Questa è la decisione del Papa, anche Repubblica dedica una pagina a questo. Il tribunale per i vescovi insabbiatori, questo è il titolo. Oh, c'è la nuova inchiesta del calcio che riguarda Lotito. Siamo in diretta anche su Periscope da questo momento. Riguarda Lotito, è tutta una vicenda di telefonate, minacce, pressioni. Il miglior commento di questa vicenda lo fa Gene Gnocchi oggi sulla Gazzetta dello Sport. Questa la capisce solo chi segue il calcio. Perquisita dalla Digos la casa di Lotito, han trovato Tavecchio che cucinava. Sapete che è accusato Tavecchio di essere un po', come dire, controllato da Lotito, presidente della Lazio. Tavecchio è il presidente della federazione. Ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccolo qui! No! Il mio amico Beppe Severgnini. No, non siamo amici, ma Beppe Severgnini sul Corriere della Sera. No, torna Samantha. una pagina, torna Samantha Cristoforetti dallo spazio e Beppe Severnini gli dà i consigli, le sette trappole da evitare, no i talk show, no la politica, no l'ovvietà, no l'incoerenza, no, no, no. Ma chi se ne frega?